fare tutta la... Restoradio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Eccoci qui di nuovo, bentornati, è 1:55 del mattino, è sempre sabato 23 giugno del 2018, questo sabato Dinner and Dance qui al convento di Nonato del Garda, e mentre curiosiamo nell'home page di Facebook delle amiche della nostra Sara, perché sono sotto di noi e noi stiamo vedendo tutto quello che stanno guardando, quindi le stiamo spiando una per volta, continuiamo, o meglio, continuiamo a parlare con tutte le spose e tutti i festeggiati di questa serata, e cominciamo a farlo con Sara. Benvenuta Sara, da dove? Da Curno, anche lei futura sposa. E, come dire, un po', ricordi un po', vabbè, l'abito è quello sicuramente, sì. Sono già pronto. Però quella coroncina un po' 68, figlia dei fiori, un po', no? Vabbè, si sa, l'addio al nubilato non si sceglie quello che si indossa, e prima ero vestita anche peggio, quindi... Sì, come eri vestita? No, vabbè, in realtà un po' ridicola. Lì, tanto ormai... No, vabbè, il cappellino tipo da gita, crepe, sì? Con sì? Una magliettina, con la visiera, pantaloncini e zainetto a spalla. Ma sì. Bello! E dove sei andata? Ad Esenzano, sul Lungolago. A raccogliere... A fare un po' di prove, di giochi, insomma. Ah, prove di giochi addirittura, sì, come mai? Sì. Cioè, aveva un senso con qualcosa che... No, ogni prova aveva un punteggio, tipo voti a scuola, e sì? Poi alla fine, se avevo superato abbastanza dignitosamente le prove, avevo il regalo che ho ricevuto prima dalle amiche. Bene, bene, interessante. E come mai questo vestito da scolaretta, comunque da alunna in gita? Perché ho sempre fatto parte dell'oratorio, no. Coordinatrice CRE durante l'estate, finché non ho iniziato a lavorare chiaramente, e quindi mi hanno ricordato un po' il mio passato. Sì, è bello, è bello, guarda, comunque sì, sì, sì, l'oratorio rimane, forma e tempra, e ci siamo passati, penso tutti. Assolutamente. Tra l'altro, passando per le vostre zone, ho sempre visto cioè sviluppatissimi gli oratori, cioè dei piccoli paesi, grossissimi, mille attività, molto sentita anche, sì, sì, sì, nella poi vostra zona. È proprio una realtà grande, abbiamo un sacco di bambini anche iscritti, grande numero anche di animatori, quindi più o meno quanto state? Abbiamo la casetta, la mamma della casetta. Pensavo fossero tutti i figli suoi, e assegnati, no, perché... più o meno 300 iscritti quest'anno i ragazzi. 300, un però. Centinaio di animatori. Però. Ma è, scusa, la mamma della casetta in che senso? Nel senso che, no, vabbè, perché di solito chi sta alla casetta del CRE sono le mamme che fanno un po' le volontarie. Ah, ok, ma la casetta cos'è? C'è la casetta dove ci sono le iscrizioni? È una casetta di quelle di legno dove ci sono le iscrizioni. Ok. Piuttosto che i bambini che si fanno male vanno. Punto di ritrovo, punto di ritrovo. E ci si gira un po', e Chiara, che è una delle mie amiche, va a fare la mamma delle casette. La mamma delle casette, quindi cucina anche dolci, patatine, no, niente. Al laboratorio cucina qualcun altro, al massimo. Ah, ne fa qualcun altro. Lei. Ah, metti ordine, tu dirigi, fai il capo clan. Bene, ma quindi tutte di quel mondo lì, anche le tue amiche o? Quasi, sì, più o meno. Vabbè, ma alla fine si cresce insieme in quel posto e poi ci si continua a conoscere, si continua a stare insieme nell'arco degli anni. E quando ci sarà questa bella ricorrenza, insomma, questo bel evento, ecco, del tuo futuro matrimonio? Ci sposiamo il 25 agosto. 25 agosto, è una data quotatissima, già la terza in questa serata, sì, te lo giuro. E come abbiamo detto prima, quindi obiettivo di rovinare le ferie a tutti. No. Quindi avvertiamo già, ecco, è un messaggio che vogliamo mandare al mondo. Avvertiamo tutti gli albergatori di non prendersela, perché per quest'anno non vedranno nessuno nei loro alloggi turistici e in tutte le zone turistiche d'Italia, perché sono tutti rubati dai matrimoni che stiamo festeggiando in questa settimana al convento, anche qui soprattutto, ma anche le serate scorse. È quotatissimo questo fine agosto. Bene, bene, e come mai adesso ne approfitto? Come mai questa scelta? Ci piaceva il periodo fine estate, quindi era comunque fine agosto, inizio settembre. Anche perché giugno e inizio luglio c'è il CRE, quindi mi dici, no, che vabbè, ci sono impegni. Ormai non sono più. Poi finito il CRE c'è da deambulare, nel senso. No, per dare quello, come c'è da scaricare un attimo la tensione, campi scuola, bravissima. E poi quindi fine agosto ci sta. No, vabbè, non è per quello, perché ormai sono un po' fuori dal giro, purtroppo. Non è una battuta. Però io vorrei farti rientrare dal giro, non conosco le vostre tradizioni, ma so che ce ne sarà una. Mi fai canzoncina, voglio la canzoncina, ci sarà una canzoncina, ne abbiamo 200. Chiedo un aiuto, dai. Dai, ci sarà una canzoncina, quella da quella che si tengono per mano, dai, no, l'inni ce l'avevamo anche noi. Il ogni anno c'era l'inno diverso. Ogni anno c'era un inno diverso, non può non esserci a corno. È l'agitazione, non mi viene. Capisco che è parte del tuo passato. Tipo, no, no, quello non ce la so. Noi adesso si fa per essere unità. E poi non me la ricordo più. No, ma presente. Ma vedi che anche perché i temi erano comuni. Se per dire abbiamo fatto anche noi, me la ricordo anch'io. Assolutamente sì. Bene, anche perché anche questi canzoncine creavano gruppo e creavano unione e aggregazione, quindi rimangono. Poi fanno un po', come dire, la stessa sensazione della canzone di Sanremo. Bellissime le prime 3-4 volte, alla 25esima. Si fa per dire un'altra. Si fa per essere unito. Cioè proprio con l'esalazione del respiro finale di chi non ne può più. Esatto, di chi non vede l'ora che dice. Cioè, fine, cambio, però è sempre bello. No, a parte quello è sempre bello. Allora, vuoi raccontarci anche un po' chi ti accompagna con queste, come dire, questo campo di girasoli che ti sta vicino, perché hanno tutte. Cosa sembra un girasole? Cos'è? Giusto? Vedi. Che hanno questo fermaglio per i capelli tutto in testa per riconoscersi sicuramente, ma anche per caratterizzare questa serata. Esatto, allora partiamo da qui. Come abbiamo detto prima, sono due mie amiche del paese dove sono cresciuta. Sì. Bella come ha preso confidenza con col mezzo. Altre due amiche che ho conosciuto invece un po' più avanti negli anni, ma con cui sono molto legata, e anche fuori c'è Valentina, che è quella che si sta muovendo anche lei. Sì. Poi c'è Valentina, che è l'amorosa di mio fratello. Ah, bello. Poi ci sono loro invece, sedute qui, che sono le ragazze che... Le abbiamo trovate in giro. Ah, no, scusa. No, le abbiamo trovate in giro, ci facevano pena e l'abbiamo... 3 o 5 anni di università, a seconda di chi si è fermata prima e chi... Ah, e comunque è rimasto questo rapporto. Sì. Università in zona sempre o sempre. Sei espatriata? Bergamo. Ah, Bergamo, quindi vicino. Ho fatto tutte economia a Bergamo. Urca, quindi fate rigare dritto. E come si chiama il tuo futuro marito? Emanuele, anche lui di Curno, di Bergamo. No, lui è di Castelli Calecchio. Beh, grazie, sempre perché Bergamo. Adesso mi hai salvato la vita, è dicendo sempre, così. No, ti dico, è sempre Bergamo, ma quasi al confine, quindi ho rischiato di prendermelo di Brescia. Urca, e lì sarebbe stata dura. Sì, perché io sono molto atalantina e quindi... È tipo Montecchi e Capuleti. Per esempio oggi una faida. Delle prove era dire forza Brescia. Urca. Però io... Ho urlato solo forza Brescia perché era quello che si volevano sentire dire. Ma prima ho detto mai dirò e poi ho detto forza Brescia. Mi piacciono questi giochini inutili, perché è come quando si incrociano le dita dietro la schiena per dire le cose che non si vogliono dire. Però non avrei mai potuto dirlo, quindi ho trovato questo. Va bene, anche perché negli ultimi anni diciamo che vi stanno regalando parecchie gioie i ragazzi dell'Atalanta FC. Quindi sono è giusto anche godersele, è giusto. Ma vai anche allo stadio? Assolutamente sì. Orca, curva? Sì, ma a sud, quella più tranquilla. Ah, sud, dove... quella dei nobili. Un po' di anni, però ecco, sono cattiva. Sì? Mi trasformo. Madonna, però. Infatti non si direbbe, ma sei cattiva contro l'avversario, contro l'arbitro. Ma anche in generale, cioè proprio mi... Mi fa paura sta cosa, mi preoccupa, sai. Infatti molte persone vedendomi così dicono impossibile. Infatti non ti vogliono, non vogliono andare allo stadio con te per paura di essere insultati. Sì, ma con chi ce l'hai? Dipende, tipo se l'arbitro inizia a fare l'arbitro con le grandi squadre che dà favori. Sì? Poi di là me la prendo con l'arbitro, con la situazione. Ma no, veramente no. Cioè sono rimasto stupefatto, non si direbbe mai. Chi è il tuo giocatore preferito quindi? Adesso il Papu Gomez. Come vorrei. Beh, ma è davvero simbolo di questa squadra, sì? Sì, adesso sì. Comunque veramente complimenti, perché stanno facendo delle cose magnifiche, e anche un po' quel calcio che ci piace, che si è un po' perso negli ultimi anni. Ma vai anche col tuo ragazzo, vai da sola, vai in compagnia allo stadio? Allora è qualche anno che vado con i miei genitori, in realtà. Addirittura? È iniziato quando bellissimo. Ero piccola, con mio papà ha iniziato a portarci allo stadio e niente, adesso abbiamo mantenuto questa tradizione. E anche loro quindi vengono ancora con te? Sì. Ma anche tua mamma? All'inizio lei no, eravamo io, mio fratello e mio papà. Sì? Poi mio fratello è interista, quindi a un certo punto ha mollato perché non gliene fregava più di tanto. Cioè, ha capito che. Cioè, nel senso, secondo me non è che ha mollato, è che a un certo punto gli si è accesa una lampadina e ha detto: io vedo gli stessi colori, però non le stesse persone che giocano, quindi c'è qualcosa che non va. Sì, ma diciamo che a volte è molto meglio l'Atalanta dell'Inter. Sì, assolutamente. Tranne un 7-1, un 7-0 che ricordo. però il mio amoroso invece è uno più da divano e televisione. Pensa a te. Sì, ma siete sicuri che tu sia la sposa e lui sia lo sposo? Sì, cioè, vi siete fatti questa domanda? No, sì. No, a volte siamo andati insieme, però molte poche rispetto a quanto vado. Ma lui si faceva le unghie? No, stava lì, poi lui si agita un sacco quando guarda le partite. Sì. Quindi... Ma capisci anche di calcio o guarda? Cioè, nel senso, sei solo no, tifoso? Abbastanza, penso di saperne abbastanza. Pensi di saperne abbastanza? Guarda com'è, con che sicurezza che si pone. Sì. Bene, bene, oh, mi ha stupito questa Sara. Non me lo sarei mai aspettato. Va bene, vuoi fare un saluto? Vuoi dire qualcosa in conclusione? Volevo salutare tutti quelli che ci stanno ascoltando, dire che sono molto felice, che ringrazio le mie amiche per avermi organizzato questa serata, mi sono divertita un sacco e saluto anche Emanuele, lo amo tanto e non vedo l'ora che arrivi il 25. Bene, e soprattutto quello che conta, forza Bre? No, forza Atalanta! Niente, ci ho provato, speravo di coglierla impreparata, ma non si fa pregare. Non si fa pregare, non c'è nulla da fare. Grazie mille allora ragazze, buona serata e alla prossima, grazie, ciao! Ciao.